spento la radio, se gli è spento forse. E come mai? Strano. Era batteria. Andiamo bene, andiamo, vero Bacchi? C'era il coso, il radio acceso sul tavolino, adesso vado a continuare ad accendere il fuoco, se no passa l'ora, a quando accende le braccia è tardi. Vi saluto, se siete poi ritorno. Ciao Tore, ciao Angelo Maria, buona domenica, buon saluto in casa. Ma che cosa ti sta succedendo? Bye bye. Atto, io lo sento a Bacchisio e tu non lo senti, sta chiudendo Bacchisio, Otto. Che l'ho sentito? Ha parlato però, boh? Ah no, quasi va bene, lascia tramodulata addirittura. Aspetta che mi sposto. Prova a vedere. Vedi adesso mi ascolti, Tore. Lo senti Totti, ti ha chiesto se lo senti. Tratti lo sento. Mi senti adesso? Ah boh, arriva qua, arriva bene Mitò, benissimo, arriva fortissimo. Nuovo Tore. Ma me ha una tacchetta la gente se bu. Oh, ma che da me arrivi bene? Tore evidentemente non ti sente bene, boh, strano, Ah, boh, là, ci sentiamo, ragazzi. Io continuo il fuocherello. Ciao Gian Maria, ciao Tore, se mi stai ascoltando, a stasera. Ciao Bacchi, ci sentiamo, allora, buon pranzo, saluta a tutti, dai. Buon precedente giornata, ciao, sta chiudendo Bacchisio. Sì, l'ho sentito, sì, adesso. Ciao Bacchi, ci sentiamo. Sentiamo stasera, ok. Ok, Tore, esatto, stasera. Stasera ci sentiamo, anche quando sto tornando dalla campagna verso casa, ce l'ho in macchina uno. Ci sono attrezzato. Bene, grazie del... Oh, non c'ha segnale Bacchisio, però la radio è limpida, è pulita, Adesso l'ho sentito anch'io. Ok, ciao Bacchi. Dai, deve fare fuoco, se no c'è a portarvi, mi passa l'appetito. Ti adedo. Andiamo, andiamo. Gatta, lui va bene che in campagna, l'aria aperta, aria pura, gatta, ma si muore anche a fare un po' che arrucci, e arrucci, gatta, venire da giù. E vabbè, fermo così, fermo. Ma lo sei con quell'altro, no, Otto, qua, sei comportati adesso. No, oh, con quello là sono, lo sto provando. Ah, ma va bene cazzo, adesso va bene. Adesso ci sento benissimo. L'ho messo in coso, l'ho messo, in PMR l'ho messo. Me lo segna direttamente, me lo dà. No, va bene, solo che c'è questo strano, Gatto, questo, una cosa del genere, come quando c'è il vento che ritocca il microfono, capito? Una cosa del genere. Beh, invece con quell'altro microfono che è dato l'altro amico non lo faceva. Devo stabilire a vedere, no? Vedere cosa cavolo è. Ma il microfono è tu, a pericolo c'è niente, deve essere dal microfono, perché con quell'altro non lo faceva, capito? Evidentemente c'è qualcosa al microfono, ecco tutto lì, ma non è che disturba, capito? Però magari se lascia la portante fissa senza parlare si nota molto, capito? vabbè. La guarderò se è coso, se no. Se attacco un altro microfono. Infatti, vi a provare un altro microfono a vedere un po'. Bene, bene, tu. Dai. Ci sentiamo stasera, allora, tu. Dai, buon pranzo. Ci sentiamo, grazie di essere entrato per due chiacchiere, fa sempre piacere, dai. Saluto di casa e buon pranzo. Ok, ciao Gianmari. Altrettanto per buon pranzo. Ci risentiamo. Bye bye.